Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Ben ritrovati allora nell'appuntamento settimanale con il mondo della scuola, nel quale oggi riprendiamo un evento, un seminario di studio che si è svolto domenica scorsa, 13 ottobre, del quale avevamo già anticipato alcuni contenuti. Adesso però ci torniamo perché questi contenuti li vogliamo conoscere insieme a Don Edmondo Lanciarotta. Ben trovato. Ben trovato a voi, grazie dell'ascolto. Ripartiamo allora da questo incontro, dal titolo che dice già molto: la Chiesa per la scuola. Ecco, è il tema che i vescovi hanno scelto per quest'anno in prospettiva di lavoro, per creare le condizioni perché le singole chiese, e quindi anche le nostre del Triveneto, possano porre a tema con i protagonisti, i docenti, i genitori, gli studenti, i responsabili del mondo della scuola, su questo argomento, per creare le condizioni affinché tutte le comunità cristiane si prendano a cuore la scuola. Ecco, intendiamo che poi la scuola è tutta, cioè chiaramente la scuola di ispirazione cattolica come prima, però poi è tutta appunto la scuola. Grazie di questo chiarimento, che è ancora, che evidenzia un pregiudizio, non che tu abbia un pregiudizio, ma che nell'opinione pubblica c'è appunto questo pregiudizio, che quando la Chiesa, e qui nel pregiudizio si pensa ai vescovi solamente, o i preti, ma tutta la comunità cristiana, ecco, si interessa della scuola, si pensa subito alla scuola cattolica, alla scuola paritaria. No, qui l'attenzione è a tutta la scuola. Certo che si dovrebbe dire a tutto il sistema educativo di istruzione e di formazione, ecco, professionale, sia per quanto attiene le scuole pubbliche statali, sia per quanto attiene le scuole pubbliche paritarie. Ma questo è un titolo molto lungo. Allora, ministeriale. Ecco, e per semplificare si dice la scuola, appunto, tutta la scuola. Scuola che poi appunto va dall'infanzia ai nidi, in alcuni casi formazione professionale, primaria, secondaria. Maria. In territori, tu citavi le diocesi, sono 15 le diocesi del nord-est, ognuna poi ha una sua specificità, problemi e opportunità diverse. E anche le sue potenzialità che dovrebbero essere innanzitutto scoperte, riscoperte, rilanciate e consolidate in questo tempo di crisi. Ecco, allora, ecco, in preparazione, ecco, del grande evento di Roma di maggio, le nostre chiese si stanno preparando per vedere e analizzare e riscoprire la propria scuola, la scuola della propria comunità, e tante comunità costituiscono le proprie scuole, ma comprendere che ogni comunità ha la sua scuola, nel senso che sua nel senso di appartenenza, di la scuola della comunità, la scuola che manifesta, che esprime la specificità della comunità nella quale si trova. Domenica dunque questo seminario per tutta la giornata a Zellarino. Domenica scorsa, vuoi ricordarci gli interventi principali, cioè chi c'era? Allora, è intervenuta la professoressa Gianna Marisa Miola, che è il vice direttore generale dell'ufficio scolastico della Regione Veneto. Poi è intervenuto il responsabile direttore dell'ufficio dell'UNESU della CEI di Roma, Maurizio Viviani. E poi sono intervenuti alcune persone che abbiamo chiamato, che dovevano introdurre anche i lavori di gruppo. Ecco, Stefano Quaglia, che è uno dei saggi, ecco, del percorso che la CEI ha promosso. Anche qui ci sono i saggi. Anche qui hanno chiamato alcuni saggi, e che in questi mesi è stato anche chiamato come direttore dell'ufficio scolastico della provincia di Verona. Poi al posto di Franca Porto, che è il segretario generale della CISL Veneto, che stava male, è venuto il responsabile del settore scuola, Nereo Marcon, ecco, che ha fatto la sua introduzione. E poi il Fernando Cerchiaro, un ex dirigente scolastico, che ora è anche direttore dell'ufficio scuola della diocesi di Vicenza. E infine è intervenuto il Bruno Forte, che è il presidente della FISME della regione Friuli Venezia Giulia. Costoro hanno introdotto i lavori di gruppo. Ecco, adesso ci arriviamo passo passo. Dunque la voce importante è quella del Ministero, perché poi l'ufficio scolastico regionale è emanazione del Ministero della Pubblica Istruzione. Allora la professoressa Miola, che tra l'altro ai tempi andati fu mia preside al liceo classico, e quindi la saluto a Montebelluna, cosa vi ha detto? Ecco, lei è intanto ha ringraziato di essere così presente, poi è partita subito da alcuni dati ultimi che l'OCSE ha evidenziato e che purtroppo ancora una volta evidenziano che l'Italia è l'ultimo posto del paese per gli apprendimenti. Quindi è una scuola disorientata, è una scuola con grandi difficoltà, ecco, è una scuola in cui ci sono, pensate, nel Veneto 700.000 studenti, di cui 120.000 sono paritari, 50.000 sono i docenti e 20.000 le persone cosiddette del personale ATA. Ecco, ha presentato la situazione del Veneto, ha presentato anche la difficoltà di dialogare con la famiglia da una parte e per ancora la presenza della delega da parte della famiglia nel mondo della scuola, ecco, e con alcuni rischi, i rischi e un elemento molto importante che lei come dirigente, ecco, regionale e come dicevi tu, persona dello Stato, ecco, dice che il rischio di una scuola troppo tecnicizzata, troppo concentrata sulle competenze e poco attenta alla relazione umana. Quindi lei ha insistito fortemente di non mettere in contrapposizione la scuola delle competenze con la scuola delle relazioni, ma di fare in modo che le competenze, ecco, siano vissute e siano realizzate all'interno di una relazione tra le persone e quindi una scuola più umanizzata, una scuola, ecco, che chiama in causa la polis, diceva lei, la polis, cioè tutte le persone che hanno a cuore la gestione della politica. Proprio da qui ripartiamo, perché dopo la pausa ti faccio una domanda un po' provocatoria, tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Sai, scriverti una lettera non è una cosa facile. Sai, mi sento così fragile. Le bombe non ti ascoltano. Ma questa guerra non mi cambierà mai. Dove si va? Come si fa a stringere la vita? Intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, il tempo è scivolato via, ma non è stato tutto inutile. Io saprò vederti crescere. Una promessa che non mancherò. E poi ancora un altro giorno nascerà per noi. Noi. Dove si va? Come si fa a stringere la vita? Intanto fuori scoppia la notte. Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. riesco più a sorprendermi, è la pazzia che danza intorno a me. E penso che dovrei difendermi, ma è più difficile combattere. Se il pianto di una madre no, non può salvare la notte. La notte. Intanto fuori scoppia la notte. Dove si va? Come si fa? Se vivere da queste parti è come tirare a sorte. Sai, scrivere una lettera non è mai stato facile. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Eccoci ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola con Don Edmondo Lanciarotta, responsabile della Commissione Scuola, Educazione e Università della Conferenza Episcopale del Trivento. Stiamo così dipanando i temi che sono stati sviluppati domenica scorsa nel seminario di studio interregionale La Chiesa per la Scuola. È un emerso anche lì, anche poi sui giornali se n'era parlato, del fatto che tradotto in modo molto grezzo, dalla scuola italiana si esce un po' ignoranti, cioè non sappiamo, sappiamo un po' meno rispetto agli altri, almeno così gli studenti. E dicevi, lo diceva anche la vice direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, che bisognerebbe più che puntare sulle competenze, sulle cose che si sanno, anche sulle relazioni umane. Ma allora, domanda, è una questione di programmi ministeriali, di programmi scolastici, di piani dell'offerta formativa, o una questione delle persone che poi questi piani, questi programmi li devono tradurre? Senz'altro, e quindi anche possiamo anche immaginare una normativa perfetta. Se non ci sono le persone che la attualizzano, questa normativa resta inapplicata. Quindi, e di contro, anche una normativa imperfetta può essere molto positiva se viene vissuta e viene concretizzata dalle persone. Quindi è fondamentale. Resta il fatto però che di tutte queste riforme si è partiti, in questi ultimi decenni, ecco, si è partito dalla presentazione dell'ordinamento, senza preoccuparci delle persone che dovevano realizzare questo nuovo ordinamento. E allora questo fa sì che ogni tipo di riforma trovi dei grandi ostacoli. Su questo aspetto però evidenziava anche la Miola che il nostro Veneto e il nostro Triveneto presenta una situazione migliore da quella che è la situazione italiana. Quindi, tenendo i parametri europei e constatando che l'Italia è l'ultimo posto, tenendo gli stessi parametri europei e la scuola del Veneto e del Triveneto, noi constatiamo, è stato detto, che siamo sopra la media. Quindi possiamo dire che il nostro status, la nostra qualità della scuola è buona. Il rischio è che la stiamo smantellando. Poi c'è anche la questione della sussidiarietà, perché va bene, noi possiamo stare contenti per come va, però nel concetto di comunità globale, di comunità nazionale della Repubblica, chiaramente se uno va troppo avanti deve anche aspettare quello che va indietro, aiutarlo a recuperare, ecco, no? E sotto questo aspetto qui, ecco, il principio della sussidiarietà orizzontale, ecco, va supportato anche da una scelta politica e da una scelta anche economica. Ecco, non è possibile che i fondi siano stanziati solamente unicamente per coprire i cosiddetti buchi, ma i fondi devono anche essere offerti, donati e stanziati, programmati per garantire la continuità e quindi per garantire la situazione, altrimenti anche in queste nostre zone rischiamo di perdere quella qualità che finora siamo riusciti a garantire. Detto dei contenuti portati appunto dalla professoressa Miola, ti chiedo di dirci in sintesi che cosa ha portato invece la CEI nella persona di Don Maurizio Viviani. Ecco, innanzitutto ha ringraziato quanto stiamo facendo noi del Triveneto e ha anche fatto una confessione e ha detto che se il processo che si è avviato con la CEI nello scorso maggio e che ha la prospettiva del prossimo maggio 2014 a Roma, uno dei grandi artefici di questo processo siamo stati noi, il Triveneto, attraverso gli incontri, attraverso le interpellanze, attraverso i richiami, attraverso i convegni, e che prima erano interpretati come un bene puramente locale o parziale, ecco, è stato compreso che era un bene a livello nazionale, e quindi ecco che ora la comunità della Conferenza Episcopale Italiana ha assunto questo e spera che questo possa essere anche, ecco, un momento di importanza politico a livello italiano per riportare la scuola, una volta si diceva, nell'agenda politica, ecco, riportare la scuola oltre e al di là gli schieramenti politici. Ecco, poi ricorderemo, già hai citato l'appuntamento di maggio, nell'ultima parte racconteremo e ricorderemo i prossimi appuntamenti. Arriviamo ai laboratori, già citavi prima i referenti, appunto Europa Umanesimo, Generazione, Futuro Educazione, Autonomia, Sussidiarietà Insegnanti, Comunità Alleanza Educativa, gruppi che hanno lavorato separatamente e che poi in assemblea hanno relazionato, no? Come si fa di solito. Sì, questo ha evidenziato, ecco, che purtroppo, nonostante il grande impegno che ci siamo messi in questi anni, manca ancora nelle nostre comunità cristiane un interesse costante per la scuola. L'interesse rischia di essere episodico, saltuario e limitato a determinate situazioni. Quindi abbiamo constatato questo. Dal versante dell'opinione pubblica e della società manca ancora una cultura sia della scuola sia anche del lavoro. E quindi sono due mondi che vanno separati, invece sono due mondi che dovrebbero sempre interagire. E quindi la intelligenza delle mani insieme con l'intelligenza cosiddetta della mente. Ecco, questi due percorsi che costituiscono l'ossatura fondamentale anche del nostro sistema veneto con l'istruzione e la formazione professionale, ecco, constatiamo però che a livello dell'opinione pubblica manca questa cultura e si ritiene ancora che il percorso dell'istruzione sia il percorso di serie A e il percorso della formazione il percorso di serie B. E poi un terzo aspetto, che la dimensione della parità, pilastro fondamentale insieme con l'autonomia del sistema scolastico, se non viene supportato anche attraverso il riconoscimento economico, rischia di franare, e se frana anche l'autonomia. Abbiamo constatato che purtroppo il processo dell'autonomia si è bloccato non solamente nel nostro Triveneto, che per certi aspetti porta avanti ancora esperienze significative di autonomia, ma si è fermato a livello nazionale. E allora da questo nostro incontro è emersa ancora un'altra volta il richiamo, l'appello, l'urgenza, la necessità di proseguire a completare, realizzare realmente la parità e l'autonomia secondo il principio della sussidiarietà. Ultima pausa e poi le prospettive e gli appuntamenti dei prossimi mesi. Dal mondo della scuola. We'll be right back. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, come tema la Chiesa per la scuola, il titolo del seminario di studio svoltosi domenica scorsa al centro Cardinale Urbani di Zellarino, incontro Triveneto, visto che la nostra regione ecclesiastica è appunto quella del Triveneto. Abbiamo parlato con Don Edmondo dei contenuti emersi, dei ragionamenti che sono stati fatti a livello locale, regionale e anche europeo, le prospettive, perché un conto è l'analisi ma poi bisogna anche guardare avanti. Ecco, delle prospettive, in sintesi alcuni elementi che così brevemente sintetizzo qui, che poi sono riportati in una bozza di un documento che la Commissione elaborerà e diffonderà nelle prossime settimane, dal titolo Per una scuola della società civile. I punti fondamentali sono questi: la necessità sempre di più di lavorare in rete, in sinergia, ma un lavorare non in termini solamente volontaristici, ma in termini anche organici, e quindi fare in modo che diocesi, scuole e realtà operino sempre in rete. Una seconda prospettiva: fare in modo di riportare una partecipazione come negli anni 74-75 con i famosi decreti delegati, che poi sono finiti purtroppo, ma operare secondo le nuove normative. Le nuove normative parlano di partecipazione, parlano di corresponsabilità, quindi creare le condizioni perché nel nostro territorio le persone che lavorano siano innanzitutto informate del loro ruolo, siano informate delle loro responsabilità e possano sempre di più dare il proprio contributo di fronte a quella che viene chiamata l'emergenza educativa, attraverso una corresponsabilità educativa territoriale. Poi un terzo ambito è guardare all'Europa. Ci siamo domandati e ci siamo chiesti come mai c'è una Europa dell'euro che unifica i vari, e tutti gli stati hanno dismesso la propria moneta per una moneta unica, e non siamo capaci di dismettere i propri modelli anche scolastici per un modello scolastico e educativo europeo. Documenti ce ne sono tantissimi, libri bianchi ce ne sono diversi, rapporti dell'OCSE ce ne sono, però ancora l'Europa dell'educazione ancora non decolla. Ci siamo chiesti come mai. E ultimo punto, appunto, come dicevo poco prima della pausa, operare perché realmente a livello normativo l'autonomia, la parità, il federalismo, la libertà di insegnamento, la libertà di scelta educativa da parte dei genitori, la sussidiarietà, tutti questi elementi, il pluralismo, che sono norme legislative basate appunto da una parte sulla dottrina società della Chiesa e dall'altra parte sulla Costituzione italiana, come mai non si realizzano? Allora operiamo affinché questo sia portato a compimento. Si opera anche con scelte, con iniziative concrete, come le due principali che sono in programma. Una è tra circa un mese a livello regionale, poi c'è l'appuntamento nazionale di Roma. Verona 24 novembre, partiamo da qui. Verona 24 novembre corrisponde da diversi anni con la giornata della scuola della comunità. Non è solamente la giornata della scuola cattolica, ma la giornata della scuola della comunità, cioè far capire all'opinione pubblica, alle comunità cristiane, che la scuola è scuola della comunità. In quella occasione si conclude quest'anno Job Orienta a Verona e si conclude anche il Festival della Dottrina Sociale. Un'occasione propizia per mettere a tema, dentro la dottrina sociale, il tema appunto della scuola. E il tutto il Job Orienta parla anche della scuola della formazione. Terminerà questa settimana con la domenica 24 novembre e di un'assemblea che sarà presieduta dal vescovo presidente della Conferenza Episcopale del Triveneto e il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, alla presenza anche di altri vescovi, e speriamo che la politica locale e la politica regionale e la politica nazionale possa essere presente, perché noi cercheremo di presentare ai responsabili della politica la nostra scuola, nostra di tutto il territorio, e vedere quali sono le risposte che la politica ci dà. E poi si va a livello più alto, addirittura con il Papa, il 10 di maggio. Di questo sappiamo solamente che il Papa ha dato la sua disponibilità in piazza San Pietro, e allora, come noi del Triveneto, spero, mi auguro che anche le altre conferenze si preparino a questo appuntamento, noi ci prepariamo anche con una bozza di lavoro, come dicevo prima, con un documento condiviso unitario che, messo a disposizione poi anche, ecco, della conferenza episcopale, può essere un aiuto per poter fare in modo che all'opinione pubblica, alla società italiana, venga presentato, ecco, il mondo della scuola, un mondo che ha bisogno di essere preso per mano, un mondo che ha bisogno di essere amato, un mondo che ha bisogno di essere anche seguito, perché lì si gioca il futuro dell'Europa, il futuro dell'Italia, il futuro della nostra società. Investire in educazione è una grande responsabilità, questo avviene anche all'interno di un decennio che tante volte abbiamo detto essere caratterizzato dall'emergenza educativa, dall'impegno per l'educazione. Quindi io spero, mi auguro che questo appuntamento possa contribuire al bene della società italiana. Don Edmondo, ti ringraziamo, ci ritroveremo in altre occasioni in questo spazio e poi ricorderemo ancora questi appuntamenti, questi grandi appuntamenti che abbiamo citato. Grazie per essere stato qui. Grazie a voi del vostro ascolto e pazienza. Arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.